con Claudia Fontanari, autrice e attrice dello spettacolo Il Dottor Dei Mati, a Roma in scena alla Libreria Teatro Tlon, sabato 15 giugno 2019. Claudia, ben trovata. Salve a tutte e a tutti. Ci presenti questo lavoro? Il titolo dello spettacolo è Il Dottor Dei Mati, storia di un neurologo a Venezia dalle fondamenta alla legge Basaglia, ed è appunto, come hai detto, scritto e interpretato da me per la regia di Sara Valerio. È uno spettacolo di teatro di narrazione che ripercorre la nascita della neurologia ospedaliera a Venezia sullo sfondo della lotta di Franco Basaglia nel mondo della psichiatria, e quindi riportando l'attenzione, diciamo, a un momento che è stato cruciale per la storia della cura della salute mentale in Italia. E nella storia io racconto di mio nonno, Diego Fontanari, racconto la sua storia, che era appunto un neurologo che aveva studiato a Padova e che arriva a Venezia all'inizio degli anni 60 per aprire il reparto di neurologia, che fino a quel momento non esisteva, perché quelli sono anni in cui si sta, diciamo, gradualmente definendo una differenza tra neurologia e psichiatria, che fino a quel momento invece erano considerate un'unica disciplina, no? La neuropsichiatria. In quegli anni si inizia a delineare quindi una separazione anche proprio tra malattia mentale vera e propria e altre forme di disadattamento sociale o disturbi di tipo organico. Quindi nello spettacolo si ripercorrono i primi anni di formazione di questo reparto, in cui parallelamente alla costruzione concreta del reparto nasce una vera e propria scuola di neurologia ospedaliera, in cui si cerca di capire, oltre con lo studio teorico, anche proprio con l'esperienza pratica, quali sono le pratiche ospedaliere da mettere in atto e quali sono anche le patologie di competenza di questo nuovo reparto nascente, con tutte le difficoltà del caso nei rapporti con la città, per cui appunto mio nonno veniva definito dalle persone per strada come il dottor De Matti, no? Quindi i rapporti con la città, con i medici di base della città, i medici degli altri reparti, gli infermieri, anche perché ancora non era chiaro quali fossero le malattie di competenza del reparto e come affrontarle anche. Infatti in questi primi anni i principali pazienti che vengono ricoverati sono pazienti che presentano dei disturbi che forse oggi definiremo borderline, o comunque diciamo che stanno sul confine di ciò che viene socialmente accettato come normale. Quindi ad esempio persone che soffrono di depressione o di alcolismo cronico, varie forme di dipendenza o anche di epilessia, oppure anche persone con forme di demenza e ritardo mentale, tutte patologie che fino a quel momento portavano a essere ricoverate in manicomio e che in quegli anni iniziano ad avere un'alternativa, perché sostanzialmente il reparto di neurologia arriva a costituirsi come una sorta di filtro tra la società e il manicomio. Inoltre questi poi sono appunto gli anni in cui si sta appunto delineando un approccio totalmente rivoluzionario alla malattia mentale, e sempre tramite la storia di mio nonno ripercorro anche alcune tappe fondamentali di quella che è stata la rivoluzione di Franco Basaglia, attraverso i racconti che lui mi fece di quando andò a trovare Franco, con cui aveva studiato a Padova e con cui era grande amico, a Gorizia e poi anche a Trieste, insomma. Nella costruzione del testo su cosa ti sei basata? Per tutta la parte che riguarda la nascita del reparto di neurologia ho avuto la possibilità di intervistare uno dei colleghi di mio nonno, e tutte le storie dei pazienti che riporto e anche le difficoltà che ho cercato di riscrivere appunto anche adesso vengono tutte dall'intervista con questo dottore Zanetti, che è uno dei personaggi anche. E quindi il grosso viene da lì. Per la parte invece relativa a Basaglia, tanta lettura, tanto studio, e anche lì tanto arriva anche dalla stessa memoria che ho dei racconti di mio nonno e di cose che lui mi ha fatto leggere, interviste, cose così, quindi oltre, diciamo, a uno studio più attento della materia c'è anche una parte di racconti più o meno diretti e indiretti che derivano dal ramo più familiare, diciamo. Un argomento così ampio e complesso, su cosa hai voluto centrarlo? La particolarità della storia, che si concentra su quanto sia sottile questo confine tra ciò che viene considerato normale e ciò che non viene considerato normale, proprio per quel che è stata per i primi anni, per la prima fase, e il ruolo del reparto di neurologia, questo mi ha portato a concentrarmi soprattutto su questo, diciamo. Ce ne potrebbero vedere tanti aspetti di questo, come hai detto tu, di questo argomento, però proprio su quanto fosse è ancora in tanti casi labile e sottile il confine tra l'essere accettato e non accettato e le conseguenze che questo ovviamente comporta. Che percorso sta facendo questo spettacolo? Questo spettacolo ha debuttato nel 2014, da allora gira per l'Italia in diverse città. Ho già fatto numerose reti, che non saprei dire quante, però insomma la cosa bella è che sono riuscita a farlo in tanti contesti, dal contesto, come dire, che è proprio di ambito, quindi davanti a psicologi, psichiatri, neurologi, così, a contesti totalmente avulsi dalla materia di per sé, quindi insomma variando moltissimo in tutta Italia, pubblici diversi, e devo dire che mi fa piacere riscontrare che è una storia che la gente ancora si incuriosisce ad ascoltare e soprattutto si coglie l'importanza di quanto, per quanto si stia parlando di una storia del passato, in realtà si racconta anche di varie forme di lotte, di lotta contro diversi modi in cui può manifestarsi l'esclusione sociale, no? E quindi questo io vedo che molta gente, sia chi si sente coinvolto perché magari per età ha partecipato a quelle lotte in quegli anni, per età, per interessi, per mestiere e quant'altro, sia anche i più giovani, anche chi magari non aveva, è capitato tante volte di incontrare anche persone che non avevano magari mai sentito nominare Franco Basaglia, la sua rivoluzione e quant'altro, vedo che comunque è un tema che risveglia molto l'interesse delle persone e questo mi fa piacere. In chiusura ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sullo spettacolo? Certo, allora c'è la pagina Facebook che si chiama Spettacolo e il Dottor De Matti, dove ci sono tutti quanti i riferimenti, e invece per avere più informazioni sull'evento di sabato c'è proprio l'evento Il Dottor De Matti Spettacolo, che si trova sulla pagina Facebook della libreria Teatro Tron. Allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Il Dottor De Matti a Roma, la libreria Teatro Tron, sabato 15 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Claudia Fontanari. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Crepi e grazie a te. A presto.